Alleluia, possiamo accomodarci. Che bello stare alla presenza di Dio, vero? Puoi contare sempre sulla presenza di Dio, puoi contare sempre sul fatto che Dio desidera stare con te e avere una relazione con te. E anche quando tu non ti senti, quando ti senti sporco, quando non ti senti adeguato, quando ti senti distante, posso incoraggiarti questa sera e dirti che Dio ti desidera comunque. Desidera te così come sei. E Lui ti ama tanto. Ti ama tanto. Amen. Lo vuoi dire, lo vuoi ricordare alla persona che ti sta vicino? Dio ti ama. Dio ti ama. È una semplice affermazione, ma cambia tutto. Cambia tutto quando hai piena rivelazione di quanto Dio ti ama. Lui ti ama quando stai bene e Lui ti ama quando stai male. Lui ti ama quando riesci a dimostrare e a presentare il meglio di te a Lui e Lui ti ama anche quando presenti a Lui il peggio di te. Lui ti ama quando fallisci e ti ama quando hai successo. Lui ti ama quando preghi e quando non preghi. Lui ti ama quando adori e quando non adori, perché il suo amore è incondizionato, non lo possiamo capire. Fratelli e sorelle, noi non ci arriviamo a capire questo amore, ma è così, ed è biblico, e quello che io sto dicendo non è un amore esasperato, esagerato o lontano dalla verità. Non lo comprendiamo perché siamo umani, noi amiamo condizionatamente. Noi amiamo perché qualcuno fa qualcosa in cambio nei nostri confronti, no? Gli uomini dicono alle proprie mogli o quando erano fidanzati: ti amo perché sei bellissima, perché hai una bellezza da offrirmi. Ma quella bellezza a un certo punto viene meno e non vale solo per le donne, anzi, ahimè, vale anche per noi uomini. Amen? Dio non ci ama perché gli diamo qualcosa in cambio, Lui ci ama incondizionatamente e siamo sempre belli per Lui. Amen? Non è il mio messaggio stasera, va bene? Non parlo dell'amore, quindi anche questi minuti non contavano, puoi azzerare di nuovo la clessidra là e ripartiamo da zero, perché il mio messaggio parte ora ed è tutta un'altra cosa, però è bellissimo. Io sono convinto che il messaggio di stasera sarà così significativo per la tua vita da trasformare il percorso tuo, i prossimi mesi, le prossime settimane, questa nuova stagione di vita. Perché questa è una nuova stagione. Lo diceva bene Giovanni, a settembre si comincia tutto di nuovo, no? È una stagione diversa, ci lasciamo alle spalle le vacanze. Quanti sono andati in vacanza? Quanti sono stati al mare? Almeno una volta. Fratelli, mi dispiace per voi che non siete andati proprio al mare. Almeno una volta. Forse vi potete ancora rifare in queste settimane, lo speriamo ancora. Però ecco, ci sta alle spalle quello che è un bel periodo, l'estate, con tanto svago, tante vacanze, almeno per qualcuno di noi. Per altri magari voi siete andati avanti nel lavoro. Però settembre è sicuramente l'inizio di una nuova stagione. Si torna nel proprio posto di lavoro. Rientrano i colleghi di lavoro, rientrano i nostri vicini di casa, la città si anima. Io vivo nel centro della città, è bellissimo essere nel centro storico di Modugno e sentire tutti questi schiamazzi, tutta questa gentaglia che torna dalle vacanze e che disturba il mio riposo pomeridiano. Io li benedico ogni giorno, i modugnesi sono grandemente benedetti da me. Però e cambia, la città cambia, prende un altro aspetto. Settembre è l'inizio di una nuova stagione, anche per la Chiesa, diceva giustamente Giovanni, perché riprendono le attività, perché davanti a noi ci sono nuove opportunità. Abbiamo il ritiro delle ragazze. Posso sentire l'urlo delle ragazze che andranno al ritiro il prossimo weekend? Proprio entusiasmante questo urlo. Allora, stamattina devo darvi questa notizia. Abbiamo fatto l'applauso più patetico che la Chiesa potesse fare. Stasera abbiamo fatto l'urlo più patetico che la Chiesa potesse fare. Posso risentire queste ragazze entusiaste di andare al ritiro? Ah, bene, bene, ci sono. E che sono gravide, allora è difficile urlare, no? Potrebbe uscire il bambino nell'urlo. Quindi avrai tempo per urlare, Stefania. avrai tempo per urlare Ilaria dovunque tu sia. E potrei andare avanti con un elenco, ma dobbiamo andare avanti perché se no non riusciamo a dirlo tutto il messaggio. Abbiamo davanti questa stagione nuova dove ci sono nuove opportunità, ci saranno ragazzi che parteciperanno al ritiro di preparazione e formazione alla leadership con i canadesi che vengono appositamente per questo. Avremo l'incontro di condivisione, appunto a proposito, l'incontro di condivisione non è solo per sentire della missione, ma aggiornarci di tutto quello che ci sta davanti. Ci sta davanti la conferenza di chiesa, la seconda conferenza di chiesa. E sarà un'occasione davvero meravigliosa. Io venerdì ho fatto mezzanotte con Vito e Sara a vedere il programma e posso assicurarvi che questo programma ha dell'incredibile. Dio opererà miracolosamente nei cuori di ognuno che verrà. E so che tutti voi vi siete già iscritti. Sarà bellissimo stare insieme 3 giorni. Sarà di potenziamento per la Chiesa. Insomma, ci sta davanti una stagione meravigliosa. Però è importante capire come vivere una stagione nuova. Perché possiamo viverla passivamente o possiamo essere intenzionali nel vivere una stagione come Dio decide e desidera che noi la viviamo. E sono andato in questi giorni a risfogliare la storia del popolo di Israele, perché lo sapete bene, se c'è una storia nella Bibbia che ci parla di stagioni è proprio quella del popolo di Israele. E sono andato a leggere quella storia nella quale erano lì, a un passo dalla terra promessa. Erano letteralmente a poca distanza da tutto quello che Dio aveva prospettato per loro, tutto quello che Dio aveva promesso per le loro vite, l'abbondanza, la benedizione del territorio di Canaan, di questa terra promessa, e Dio ordina loro di scegliersi 12 uomini, uno per tribù, per andare ad esplorare questo paese. Perché Dio voleva che il popolo di Israele rimanesse stravolto e scioccato dal fatto che effettivamente quel posto era esattamente come Dio l'aveva descritto. Un paese dove scorreva il latte e il miele. E quindi 12 uomini si sono mobilitati per 40 giorni, hanno esplorato il paese e sono ritornati a portare il loro resoconto alla restante parte del popolo. E hanno detto effettivamente... è scioccante. Noi abbiamo visto dei frutti straordinari. Sapete, hanno portato un grappolo d'uva che non un uomo riusciva a trasportare, ma in due dovevano trasportare. Lo trasportarono con un bastone. Pensate quanto doveva essere grande questo grappolo d'uva. Era effettivamente come Dio l'aveva descritto, un paese prospero, benedetto, meraviglioso. Eppure il resoconto di queste 12 spie non è del tutto positivo. Anzi, noi leggiamo che 10 di queste spie hanno un atteggiamento, un'attitudine e portano un resoconto negativo, pessimista. E non si riscattano dalla ribellione, dal mormorio, dalla lamentela che avevano vissuto già come popolo di Israele nel deserto. Continuano a mormorare, anzi, aggravano la loro situazione, perché pensate un po', quando Caleb e Giosuè riportano quella che è il resoconto positivo della terra promessa e dicono si può fare, possiamo andare, possiamo conquistare, gli altri 10 e tutto il popolo decidono di lapidarli. Decidono, ascoltate bene, questa è la storia, la potete andare a leggere, però ve la sto riassumendo, decidono di formarsi e di scegliere un altro leader, di rimuovere Mosè, scegliersi un altro leader per andare, sapete dove? Indietro, in Egitto, da dove Dio li aveva liberati in una maniera miracolosa. Avevano cambiato totalmente pensiero e si erano ribellati a Dio. E quello che noi leggiamo ha dello straordinario in Numeri al capitolo 14, lo voglio leggere insieme, perché Mosè fa una cosa meravigliosa. Mosè è l'immagine di Cristo nel Vecchio Testamento e lui intercede per il popolo e chiede a Dio di perdonare il popolo, di dare un'altra occasione, di non ascoltare questo mormorio, di non ascoltare la ribellione. E dice proprio queste cose, lo leggiamo in Numeri capitolo 14. Numeri è un libro della Bibbia. Numeri è un libro della Bibbia e ci tengo a precisarlo perché c'è una storia che voglio raccontarvi che riguarda i mottolesi, ok? Eravamo una sera riuniti e appunto stavamo per leggere da Numeri insieme, non farò nomi, ok? Quindi tranquillizzatevi, e ho detto, fratelli, apriamo insieme la Bibbia in Numeri 14, versetto 19. E una sorella mi fa, pastore, dove? E io, Numeri 14, 19. Pastore, dove? Non ho capito. Non era una sorella che avesse problemi di udito. E quindi di nuovo ho ripetuto Numeri 14, 19. E la sorella mi fa, pastore, ho capito i numeri, ma in che libro della Bibbia devo andare? E io l'ho guardato e ho detto, sorella, Numeri è un libro della Bibbia. E quindi sia chiaro per tutti, Numeri è uno dei tanti libri della Bibbia, del Vecchio Testamento. E al versetto 19 noi leggiamo che Mosè, nel continuare la sua preghiera, dice, perdona, ti prego, l'iniquità di questo popolo, secondo la tua grandezza, secondo la grandezza della tua bontà, come hai perdonato a questo popolo dall'Egitto fino a qui. Mosè dice, l'hai già fatto tante volte, l'hai fatto decine di volte, per piacere, perdona ancora questo popolo. E il Signore disse, io perdono. Noi abbiamo un Dio di grazia. Ed è lo stesso Dio. Nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, Lui è un Dio buono, misericordioso e lento all'ira. Amen? E infatti Dio dice, io perdono come tu mi hai chiesto. Però va avanti e dice, però, come è vero che io vivo, tutta la terra sarà piena della gloria del Signore. Tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria e i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già 10 volte e non hanno ubbidito alla mia voce, certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Ascoltate ora. Ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente. Perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato e la sua discendenza lo possederà. Dio nomina un uomo e lo elogia per un'attitudine, un atteggiamento, uno spirito dal quale è stato animato. E noi vogliamo vedere in maniera approfondita di che spirito si tratta, perché questo non è lo Spirito Santo, è lo spirito di Caleb, è il suo atteggiamento, sono le sue parole, è il suo modo di fare. E posso già da subito dirti che se vuoi entrare nelle terre promesse da Dio per te, nelle benedizioni che Lui ha in serbo per te, c'è uno spirito del quale ti devi appropriare. Non si entra nella terra che Dio ha promesso per te in una maniera passiva e senza contribuire in una qualche maniera. Dio ci insegna attraverso la sua parola con quale attitudine noi dobbiamo vivere il nostro percorso di fede e come possiamo entrare nella terra promessa. Lui ha abbondanza di benedizioni per te in questa nuova stagione. Ma se vuoi entrare, c'è uno spirito dal quale devi essere animato e deve essere uno spirito che si contraddistingue. Noi leggiamo che Dio dice che Caleb è stato animato da un altro spirito, da uno spirito diverso dagli altri. Lui si è distinto e Dio vuole che noi ci distinguiamo. Dio vuole che noi siamo animati da uno spirito diverso. Dio vuole che noi facciamo la differenza, che non ci facciamo condizionare, ma che condizioniamo. Lui vuole che nel nostro posto di lavoro noi non ci adeguiamo a quello che lo spirito di mormorio, di lamentela, di critica, di gelosia, di invidia, di scontro, di parole dette con violenza, con parole dette con cattiveria, gli uni nei confronti degli altri. Dio vuole che noi ci distinguiamo. In Romani 12 noi leggiamo, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. il tuo posto di lavoro in questa nuova stagione non è la tua minaccia, è la tua opportunità per distinguerti e per essere animato da uno spirito diverso che darà gloria a Dio. Dio ti sta osservando e Dio desidera che tu sia animato da uno spirito diverso, che parla un linguaggio diverso, che agisce in una maniera diversa. Dio vuole che noi abbiamo un altro spirito, non lo spirito dei nostri compagni di banco. Io mi ricordo proprio in questa stagione, nell'entrare a scuola, no, a settembre, quanto era difficile, soprattutto quando la classe era nuova, i compagni di banco cambiavano e tu dovevi adeguarti, dovevi conquistarti, no, il piacere degli altri, ed eri disposto a fare di tutto per essere uno di loro. E molto spesso noi abbiamo difficoltà a distinguerci perché fa male essere un diverso. Ma posso dirti questo, ragazzi, ora che rientrate a scuola, è un privilegio essere dei diversi. È una grazia di Dio che voi possiate entrare nelle vostre classi e riconoscere che voi non parlate come tutti parlano, che voi non vi atteggiate come tutti gli altri si atteggiano, che voi non fumate quello che tutti gli altri fumano, che voi non scegliete le strade che tutti gli altri scelgono per divertirsi, perché il vero divertimento, la vera gioia, voi l'avete già ed è in Cristo Gesù. Distinguiti. Distinguiti al lavoro, distinguiti a scuola, distinguiti in famiglia, distinguiti nel tuo matrimonio. Dici, ma tu non conosci mia moglie o tu non conosci mio marito, tu puoi essere la differenza. Non aspettare che l'altro cambia per essere tu quel diverso che Dio ti sta chiamando ad essere. Comincia tu, perché è Dio che ti osserva e Lui vuole che tu, come Caleb, sia animato da uno spirito diverso. Il titolo di questo messaggio è proprio questo, una nuova stagione con un nuovo spirito. Amen? Lo vogliamo? Vogliamo una nuova stagione con uno spirito diverso, con uno spirito rinnovato, con uno spirito che è in linea con la volontà di Dio. Allora vediamolo questo spirito, perché è meraviglioso. Prima di andare a leggere proprio come Caleb si è espresso e come ha dimostrato di distinguersi, io voglio leggervi un salmo. Perché questo salmo mi ha fatto molto riflettere, si trova nel capitolo 101, versetto 3, queste parole. Il salmo 101, versetto 3 dice: non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Non mi proporrò nessuna cosa malvagia. Che bella affermazione da fare per questa stagione. Io non desidero e non voglio vivere e non mi spingerò verso nessuna cosa malvagia. E poi aggiunge: detesto il comportamento dei perversi. Sapete che Dio vuole che noi odiamo il peccato, non i peccatori, ma che noi odiamo il peccato, che noi detestiamo ciò che è contrario alla sua volontà, e che questa posizione è la condizione migliore. Detestare il peccato significa essere uguale a Dio, perché Dio detesta e odia di un odio puro il peccato. E poi aggiunge: non mi lascerò contagiare. Ed è qui che voglio fermare la vostra attenzione, perché il male è contagioso, fratelli e sorelle. La lamentela è contagiosa. È mai capitato in una conversazione? Ma non volevi neanche. Però qualcuno ha cominciato a lamentarsi con te e ha alimentato in te lamentela. E questa lamentela è andata avanti per diverso tempo. Tu lasci e saluti quella persona e ne esci devastato, rammaricato. Non avresti mai voluto, ma è così. Il male è contagioso. La critica attira critica. La ribellione attira ribellione, la malizia attira malizia, il peccato attira peccato. Per questo noi ascoltiamo nei notiziari, nei telegiornali, giorno dopo giorno, quanto dei branchi, perché così vengono definiti ed è una giusta definizione, perché non sono più uomini, non sono più ragazzi, coloro che violentano, coloro che sono disposti ad ammazzare, che sono disposti a fare ogni cosa. Quelle persone, quei ragazzi, nell'unione arrivano a fare delle cose terribili, perché il male è contagioso ed è anche vero però che la purezza, la santità diventa contagiosa. Nel momento in cui noi brilliamo della luce di Dio, noi manifestiamo una realtà diversa, la realtà del regno dei cieli, e quella realtà diventa attraente. Vi è mai capitato? Io sono convinto, ho davanti a me tutte persone che amano il Signore, e so per certo che qualcuno nella tua vita è venuto a dirti: ma che begli occhi che c'hai, che bel sorriso che hai, che bella attitudine. È lo Spirito Santo che mette a noi una possibilità di sorridere, di essere gioiosi, di essere in pace, di essere rilassati anche nei momenti più difficili. E questo porta testimonianza, questo porta salvezza tutta attorno a noi. Cerca i giusti modelli, non ti fare contagiare da coloro che hanno un modello sbagliato, fatti contagiare da coloro che hanno un buon modello. Genitori, futuri genitori, ne abbiamo tanti, fatevi contagiare da matrimoni e da genitori che nel loro avere figli anche hanno dimostrato di non voler vivere un'idolatria mettendo i bambini al primo posto, ma mettendo sempre comunque Dio al primo posto. E ne abbiamo tanti di questi esempi. Ed è così che si cresce bene, così le famiglie sono sane e così anche i vostri figli beneficeranno, perché il meglio che tu hai da offrire ai tuoi figli e ai tuoi futuri figli è il tuo benessere spirituale, la tua presenza spirituale con Dio, la tua connessione con Dio. Quindi voglio leggervi quali sono state le parole sia delle 10 spie sia di Caleb. Ce la facciamo? No? Ce la facciamo, sì? Siete contenti di leggere con me questi tre versi? In Numeri, capitolo 13, Numeri è sempre il libro della Bibbia, capitolo 13, versetto 27 c'è scritto: fecero il loro racconto e dissero: noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorrono il latte e il miele, ed ecco alcuni suoi frutti, però, e questo però è devastante. Però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate grandissime, e vi abbiamo anche visto dei figli di Anak, gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorei, la regione montuosa, i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano. Insomma, si stanno lamentando di questa forza che hanno visto, di questi giganti che hanno visto, di questi guerrieri, di queste città fortificate. Però, andando avanti nella lettura, noi leggiamo lo spirito che ha animato Caleb, che emerge e si manifesta attraverso la sua confessione. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse, ascoltate le parole di Caleb: saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Perché possiamo riuscirci benissimo. Potete ripetere con me: perché possiamo riuscirci benissimo. In questa nuova stagione confessa: perché possiamo riuscirci benissimo. Davanti ai giganti, davanti alle situazioni difficili, tu puoi riuscirci benissimo, perché è Dio che è davanti a te. Ora non so cosa stai per attraversare in questa stagione, ma so chi è disposto ad essere con te lungo tutto il tuo cammino e tutto il tuo percorso, e lui è più grande di qualsiasi circostanza difficile che affronterai. Perché nel Salmo 23 c'è scritto: quando anche attraversassi la valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male. Perché? Perché? Dillo più forte, perché? La garanzia del nostro successo e della nostra forza è la presenza di Dio. La presenza di Dio. La presenza di Dio ci dà vittoria in ogni valle di morte. Sapete cosa fa il diavolo nelle valli di morte? Ci fa osservare la devastazione. Ci fa osservare tutte le sciagure, tutte le circostanze. E fa in modo che queste tempeste, queste circostanze negative, questa morte, questa devastazione, questo deserto entri nel nostro cuore, per poi motivare le nostre parole, portarci alla lamentela, allo sconforto e a credere una bugia che fra le più grandi bugie è le più proposte dal maligno. E sapete qual è? Che Dio non è più con noi, che Dio è lontano, che Dio ci ha abbandonati. Quante volte l'avete sentito? Magari qualcuno che sta attraversando una situazione difficile. E non c'è da biasimare, tutti noi viviamo questo sconforto. Quando tutto ci cade addosso e quando piove sul bagnato, perché molto spesso così, succede la prima cosa negativa e poi se ne aggiunge un'altra e poi come se non bastasse, quando siamo allo stremo delle nostre forze, ce ne piomba un'altra ancora e un'altra ancora fino a devastarci. E in quella condizione il diavolo viene per portarci a credere la più grande delle bugie, che Dio ci ha abbandonati, che siamo soli, che siamo lasciati in balia alle circostanze. Ma Dio promette, ed è una delle promesse più ripetute nella Bibbia, che Lui non ci lascia e che Lui non ci abbandona, che Lui è sempre con noi, che Lui è vicino a noi. Posso incoraggiarti questa sera e scuoterti un po' e dirti: fratello, sorella, Dio è con te, Dio è vicino, Dio è ora con te, anche se tu non lo senti, non occorre che tu lo senta a livello emotivo, perché Lui c'è e Lui mantiene le promesse che dà. L'abbiamo cantato, ma lo crediamo col nostro cuore e dobbiamo ricordarcelo, è la promessa della Sua parola. E se non ci crediamo, stiamo dando credito e stiamo dando valore alla voce del nemico, a Satana. Non credere alla voce del nemico. Credi alla voce del veritiero, di colui che dice: io sono la verità, e che ti dice: io sono con te sempre. E se tu hai questa rivelazione, sei convinto, anche quando tutto ti crolla attorno, anche quando sei nella peggiore delle situazioni lavorative, anche quando sei nella peggiore situazione economica, tu ti tranquillizzi perché dici: Signore, io ci credo a quello che tu dici, io ci credo che quello che tu affermi è sempre vero e non viene mai meno. Io credo nelle tue promesse, tu sei vicino a me, tu conosci quello che sto attraversando e io andrò oltre la valle dell'ombra della morte. Amen, amen. Sii incoraggiato e sii animato da uno spirito diverso. Lo spirito di Caleb è stato positivo. Ci sono due aspetti che voglio toccare questa sera. Il primo è che è stato positivo, lui è stato positivo. Poteva benissimo fare come tutte le altre spie e riconoscere che c'erano città fortificate, battaglie da dover combattere, giganti da dover affrontare, ma Caleb ha scelto di avere una prospettiva positiva. E la scorsa settimana voi avete sentito un messaggio da parte del pastore Pinuccio che si parlava di avere una prospettiva positiva e noi dobbiamo avere una prospettiva positiva. La fede è positiva. La fede confessa il bene, la fede confessa la possibilità, non l'impossibilità. E questo è quello che Caleb fa, lui si distingue perché dice: possiamo riuscirci benissimo, in quanto Dio è con noi, e con Dio noi possiamo ogni cosa, è positiva. È tempo, proprio scritto così nei miei appunti, è tempo di dire basta ad uno spirito negativo che vuole impossessarsi della nostra mente, del nostro cuore e determinare le nostre scelte. È tempo di dire basta alla lamentela. È tempo di dire basta all'impossibilità, è tempo di dire basta ai giganti, a quanto questi sono una minaccia per noi, perché noi siamo il popolo più privilegiato, abbiamo un Dio che è potente. Lui è più grande di ogni circostanza difficile, Lui è più grande di ogni cosa che non va bene nella tua vita. È tempo di dire basta alla critica. E questa nazione sta aspettando un popolo che si alza in piedi e dice basta e si distingue per una voce diversa, per una voce che non ha da accentuare i problemi, ma ad accentuare la soluzione, perché noi abbiamo la soluzione ed è una soluzione eterna ed è una soluzione terrena. Noi siamo custoditi in Cristo, noi siamo al rifugio in Lui, Lui provvede per noi, c'è sicurezza nella vita che noi viviamo in Cristo. Il secondo aspetto dello spirito di Caleb non solo che è stato positivo, ma è stato volenteroso, uno spirito volenteroso. Lo leggiamo non solo nelle parole che abbiamo letto, ma vi invito a leggere il resto della storia, perché si sente parlare ancora di lui e si sente parlare ancora altre parole delle altre spie. È stato animato da uno spirito volenteroso. Voleva fare, voleva servire, voleva andare, voleva combattere, voleva conquistare. Voleva andare nella direzione che Dio aveva prestabilito per lui. E io voglio animarti con le mie parole questa sera, se fosse possibile, voglio animarti da quello spirito giusto che ti porta a dire: io voglio tutte le cose che Dio ha in mente per me. Io voglio conquistare quei territori ancora inesplorati. Io voglio entrare in quelle benedizioni che Lui ha per me. Io voglio vivere una vita straordinaria, non basata sulle cose terrene, ma che ha un valore eterno, che è gloriosa, che parla del grande Dio al quale appartengo. Io voglio. Nel Salmo 51, al versetto 12, il salmista si esprime con questa preghiera e dice: rendimi la gioia della tua salvezza. Ascoltate ora, è uno spirito volenteroso mi sostenga, è uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e i peccatori si convertiranno a te. I peccatori si convertono quando si trovano davanti uomini e donne ripiene di Spirito Santo e animate da uno spirito volenteroso, volenteroso a portare loro la differenza, volenteroso a splendere di quella luce di positività, di parole positive. Questo attira i peccatori. Vuoi portare a salvezza anime? Allora sii animato da uno spirito diverso, da uno spirito volenteroso. La scorsa settimana eravamo a pranzo, la mattina si erano appena ritirati la famiglia Ronchi, mio fratello, mia cognata, i miei nipoti, ed eravamo a pranzo e mangiavamo. Loro erano in quello stato di confusione dovuto al fuso orario, no? E al viaggio lungo che hanno attraversato, ed erano tutti un po' dormienti e mangiavano a stento, tranne Chloe. Chloe si distingueva. Sembrava che non risentisse per niente del fuso orario, era allegra, parlava, mangiava, e quindi io per un po', per stuzzicare, no? Per dire qualcosa che poteva portarla un po' a deprimersi, a spegnere un po' questo spirito allegro, le ho detto: Chloe, ti vedo così allegra che mi sembra che sei pronta già di tornare a scuola domani. Io mi aspettavo che lei si incupisse, mi guardasse storto, si giustificasse e mi dicesse: no Mirko, mancano ancora qualche settimana, per piacere non mi parlare di scuola, eccetera eccetera. Ma lei mi ha guardato e mi ha spiazzato, perché ha detto: sì Mirko, sì zio, sono pronta, io voglio tornare anche domani a scuola. Io sono rimasto disarmato. Quando mai, no, si sente un bambino che è pronto a tornare a scuola? Ma poi lei, che ha alle spalle un'esperienza meravigliosa, è stata in America, è andata in piscina, è andata ai fiumi, ai laghi, è stato con i cuginetti, si è divertita. Lei sì che ha avuto una vacanza, mio fratello e Carli non tanto, però loro sì che si sono divertiti. Eppure, Chloe non si è affezionata e non aveva uno spirito nostalgico per la stagione che le sta alle spalle. Ha dimostrato la voglia di entrare a scuola e di ritrovare le sue amiche di banco e di riprendere gli studi. Forse non è ancora del tutto consapevole di quello che l'aspetta. Però che bell'esempio! E quanto il Signore mi ha parlato attraverso questo esempio. Io voglio essere così. Io non voglio essere nostalgico, delle esperienze della stagione precedente. Io voglio guardare in faccia la stagione che sta avanti e voglio dire: si può fare benissimo. Sono pronto e sono pronto a fare la differenza e ad essere animato da uno spirito nuovo, diverso, per una stagione nuova, e voglio vivere le relazioni, quelle vecchie, quelle nuove, con un'attitudine rinnovata, perché Dio vuole servirsi di me per portare luce. E anche quello che tu vuoi, puoi essere animato da uno spirito volenteroso. Allora voglio concluderti dandoti proprio delle istruzioni molto pratiche. La prima è che uno spirito volenteroso non dice: perché proprio io? Vi ricordate Mosè? Sono balbuziente, non sono all'altezza, perché proprio io? Non dire perché proprio io. Quando Dio ti dà l'opportunità di servirlo in chiesa, essere un capogruppo, prendere una responsabilità, affrontare una nuova sfida, non dire perché proprio io, ce ne sono altri centinaia che le possono fare. È un privilegio poter sfidare te stesso, te stessa, e metterti davanti a cose che non sai fare, permettendo a Dio di agire in una maniera nuova attraverso di te. Nella generosità, nel dare, nelle finanze, in qualsiasi cosa, sfida te stesso, non dire perché proprio io. Uno spirito volenteroso, numero due, accetta il sacrificio e il dolore. Vi ricordate Gesù nel Getsemani? Era spaventato e angosciato. E ha chiesto addirittura al Padre se potesse evitare tutto quello che gli stava davanti. Era consapevole che c'era una tortura davanti a lui. Era consapevole che l'avrebbero preso in giro, avrebbero sputato, l'avrebbero maltrattato e l'avrebbero infine appeso alla croce. Gesù era consapevole, vedeva tutte queste cose. Però ha pregato, non la mia volontà, ma la tua. E con uno spirito volenteroso si è alzato in piedi ed è andato incontro a quelle persone che sono venute per arrestarlo. Caleb è stato animato dallo stesso spirito, lui voleva entrare nella terra promessa davanti a quei giganti, non sapendo come affrontarli, con il rischio di morte, con il rischio di dolore, con il rischio di sofferenza, ma con la voglia di vivere qualcosa di nuovo che era decretato da Dio. Si è disposto a soffrire, perché no? Servire il Signore significa anche soffrire. È bello, è bellissimo, è meraviglioso, ve lo assicuro. Ma porta anche sofferenza, richiede dei sacrifici. Ma quanto sono ripagati quei sacrifici? Quanto sono grato a Dio per i sacrifici che Lui mi ha permesso di vivere? In queste settimane, e c'è stata occasione che ho detto: Signore, ma perché proprio io? C'è stata occasione dove sono stato tentato a dire: Signore, non voglio il dolore, non voglio. Voglio scappar via, voglio trovare un'altra strada. Affronta tutto questo, perché dietro il sacrificio, come è stato vero per Gesù, che quel sacrificio è stato glorioso e ha portato grandi conquiste, anche il tuo sacrificio, anche la tua sofferenza porterà grandi conquiste e grande gloria a Dio. Lo spirito volenteroso non si fa fermare dal sacrificio, dal dolore, ma lo accetta. E poi uno spirito volenteroso non lamenta la solitudine, non si lamenta della solitudine. Quante volte, no? Anche come leader, capogruppi, responsabili, nel prendere una qualsiasi responsabilità, nel lavare, nell'essere nella servolution, in qualsiasi cosa, lamentiamo che magari ci ritroviamo da soli. Perché pensiamo, no? Se fossimo in più persone sarebbe più facile. Ma perché non lo vedi come un privilegio? E dire: io ci sono e io voglio fare la differenza. E anche se sarò da solo, lo voglio fare comunque. Noè ha accettato questa sfida, vero? Ha costruito un'intera nave da solo, mentre tutti lo ingiuriavano e dicevano: ma che stai facendo? Lui, tavola dopo tavola, ha costruito questa nave perché ha ubbidito a Dio e perché ha voluto rispondere a quella vita gloriosa alla quale Lui lo stava chiamando. Sei solo nel tuo servire il Signore, sei solo nelle circostanze che ti ritrovi a vivere, non sei mai solo. Dio è con te e Lui vede la tua condizione. Sii animato da uno spirito volenteroso e accetta anche quella che può essere una forma di solitudine. Lo spirito volenteroso prende iniziativa. E con questo voglio concludere e voglio invitarvi a leggere un passo che non abbiamo il tempo di leggere, ma che si trova in 1 Samuele capitolo 14, che è quella storia dove Jonathan con il suo scudiero prendono un'iniziativa di combattere un intero esercito, loro due, un intero esercito di filistei. Nessun angelo è apparso a Jonathan, nessuna voce lui ha sentito dall'alto, non c'è stata nessuna indicazione, nessun segno miracoloso che ha portato Jonathan a dire: io posso affrontare questo esercito. È stato lui, volenteroso, che ha detto testuali parole, ve le voglio leggere perché sono bellissime. Non è difficile per il Signore salvare con molti o con pochi. Che uomo di fede. Ha detto, per Dio non cambia niente se siamo un esercito di milioni di soldati o se siamo solo io e il mio scudiero. Perché lui è potente e lui mi darà la vittoria. E se vuole, lui lo può fare. E quindi si è spinto oltre, si è affacciato a questo esercito. E lo ha combattuto. Ha ammazzato qualche persona e poi il resto l'ha fatto Dio. Si sono tutti messi l'uno contro l'altro e l'intero esercito si è ammazzato da solo. E il popolo di Israele è rimasto lì allibito. Uno spirito volenteroso prende iniziativa. Prendi iniziativa, non aspettare che qualcuno ti venga a chiedere qualcosa. Prendi iniziativa nel cominciare, che ne so, un incontro di preghiera. Prendi iniziativa nel fare un culto in casa. Sentito una bellissima testimonianza di Clarissa che è andata in Canada ed è andata ospitata da una famiglia di credenti. Del resto il pastore Thomas lo conoscete, ha predicato qui ed è lui che li ha accolti. E Clarissa ha detto: facciamo un culto di famiglia, preghiamo e lodiamo il Signore insieme. E ne sono usciti tutti edificati. Quanta benedizione c'è in uno spirito volenteroso, in uno spirito che prende iniziativa. Prendi iniziativa. Non ti far frenare dalla timidezza e dalla paura. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Se vuoi una nuova stagione, animata da un nuovo spirito, che è lo spirito di Caleb, io ti chiedo di chiudere i tuoi occhi e alzare le tue mani. E voglio pregare per ciascuno di noi. Alleluia. Grazie Gesù. Padre, noi ti ringraziamo per la tua parola, perché è meravigliosa. Grazie per quante cose possiamo imparare dalla tua parola. E noi vogliamo pregarti in questo momento affinché tutto questo che abbiamo sentito, ascoltato, e che può rimanere facilmente solo teoria, che possa invece diventare pratica, che noi possiamo essere riempiti del tuo Spirito Santo e animati da uno spirito diverso. Noi vogliamo distinguerci, Padre. Io prego per una stagione nuova, dove al lavoro, a scuola, a casa, con i vicini, con gli amici, ci distinguiamo. E animati da uno spirito positivo, portiamo la tua luce. Animati da uno spirito volenteroso, portiamo salvezza a tutti coloro che ci sono attorno. Noi desideriamo, Padre, che in questa nuova stagione tutto sia rimesso nelle tue mani. E come le nostre mani sono adesso a te, alzate in cielo, in segno di arresa, noi ti chiediamo di prendere le nostre famiglie, di rispondere ai nostri bisogni, e di farci sentire la tua presenza nella valle dell'ombra della morte, davanti ai giganti, davanti alle battaglie, davanti alle città fortificate. Vogliamo te perché sappiamo che tu sei il potente in battaglia, tu sei l'eterno degli eserciti, tu sei colui che vince sempre, non conosce sconfitta. Ci alleiamo a te, Padre. Facciamo alleanza con te in questo momento. Ti chiediamo di andare insieme in una nuova stagione di vittoria, dove le cose si possono fare benissimo perché tu sei con noi. Grazie Gesù, a te la gloria e l'onore. Amen. Amen. Fai ora la tua preghiera a Dio. Rimaniamo alla sua presenza. Chiedi a Dio di guidarti. E alla luce di quello che hai sentito di questo messaggio, parla con Dio. Prendi delle decisioni in questo momento e adora il suo nome. Alleluia.